per 6 giorni lavorerai e nel giorno settimo sarà completo riposo e convocazione sacra. Non farete alcun lavoro. Il sabato è per il Signore dovunque voi abitiate. Queste sono le feste del Signore che voi proclamerete nel tempo stabilito. Nel primo mese, il 14° giorno del mese, fra i 2 crepuscoli, è la Pasqua del Signore. Il 15° giorno di questo stesso mese è la festa degli azimi per il Signore. Per 7 giorni mangerete azimi. Il primo giorno ci sarà per voi convocazione sacra. Non farete alcuna opera servile. Offrirete l'offerta al Signore per 7 giorni. Il giorno settimo ci sarà convocazione sacra. Non farete alcuna opera servile. Il Signore disse ancora a Mosè: parla ai figli di Israele e ordina loro: quando verrete nella terra che vi do, farete il raccolto e porterete il covone, primizia del vostro raccolto, al sacerdote. Egli presenterà il covone davanti al Signore affinché voi siate graditi. Il sacerdote lo presenterà l'indomani del sabato. Nel giorno in cui presenterete il covone, immolerete un agnello senza difetto, nato nell'anno, come olocausto al Signore. L'offerta che l'accompagna sarà di 2 decimi di efa di fior di farina intrisa d'olio, dono per il Signore, profumo gradevole. La libazione di vino che l'accompagna sarà di 1/4 di hin. Non mangerete pane, grano arrostito o spighe fresche fino a questo stesso giorno, fino a che non abbiate portato l'offerta al vostro Dio. Legge eterna per tutte le vostre generazioni, ovunque voi abitiate. Dal giorno dopo il sabato, a partire dal giorno in cui avrete portato il covone della presentazione, conterete 7 settimane complete. Fino all'indomani del 7° sabato conterete 50 giorni e farete una nuova offerta al Signore. Dalle vostre case porterete 2 pani di presentazione che siano del peso di 2 decimi di efa di fior di farina. Cuoceteli con lievito quali primizie per il Signore. Offrirete con il pane 7 agnelli senza difetto di 1 anno, un giovenco e 2 montoni. Saranno un olocausto per il Signore. L'offerta e la libazione che li accompagna saranno dono dal profumo gradevole per il Signore. Immolerete 1 capro come sacrificio espiatorio e 2 agnelli nati nell'anno per il sacrificio di comunione. Il sacerdote li presenterà con il pane delle primizie e 2 agnelli davanti al Signore. Saranno sacri al Signore e apparterranno al sacerdote. In quello stesso giorno proclamerete una convocazione sacra e non fate alcuna opera servile. Legge eterna ovunque voi abitiate per tutte le vostre generazioni. Quando farete la mietitura della vostra terra, non mieterai fino al limite del tuo campo e non spigolerai la spigolatura della tua mietitura. Le lascerai per il povero e per l'immigrato. Io sono il Signore, Dio vostro. Il Signore disse a Mosè: ordina ai figli di Israele, nel mese 7°, il 1° del mese, sarà per voi riposo completo, memoriale proclamato a suono di giubilo, convocazione sacra. Non farete nessuna opera servile e offrirete doni al Signore. Il Signore disse ancora a Mosè: il 10° dello stesso 7° mese è il giorno di espiazione. ci sarà per voi convocazione sacra. Farete digiuno e offrirete l'offerta al Signore. Non farete in tal giorno alcun lavoro, perché è il giorno di espiazione, per espiare per voi alla presenza del Signore vostro Dio. Chiunque non digiuni in tal giorno sarà eliminato di mezzo al suo popolo. Chiunque faccia un qualsiasi lavoro in tal giorno, io lo sterminerò di mezzo al suo popolo. Non farete alcun lavoro. Legge eterna per tutte le vostre generazioni, ovunque voi abitiate. Sia riposo completo per voi e digiunate. Il 9 del mese, dalla sera alla sera seguente, osserverete un riposo completo. Il Signore disse poi a Mosè: parla ai figli di Israele, riferisci loro. Il 15 dello stesso mese settimo è la festa delle capanne, 7 giorni dedicati al Signore. Nel primo giorno ci sarà convocazione sacra, non farete alcuna opera servile. Per 7 giorni offrirete i doni al Signore. Nell'ottavo giorno ci sarà convocazione sacra e offrirete i doni al Signore. È giorno di riunione. Non farete alcuna opera servile. Queste sono le feste del Signore nelle quali proclamerete convocazioni sacre per offrire i doni al Signore: olocausti, offerte, sacrifici, libazioni, secondo il rituale di ciascun giorno, oltre i sabati del Signore e oltre le vostre donazioni, le vostre offerte votive e le vostre offerte spontanee che offrirete al Signore. Il 15 del settimo mese, quando raccogliete i prodotti della terra, festeggerete la festa del Signore per 7 giorni. Il primo giorno sarà riposo, e così l'ottavo giorno. Il primo giorno prenderete i frutti migliori, rami di palma e fronde di alberi folti e di salici d'acqua, e li porrete davanti al Signore vostro Dio per 7 giorni. Celebrerete questa festa per il Signore per 7 giorni ogni anno. Legge eterna per tutte le vostre generazioni. La festeggerete nel mese settimo. Abiterete in capanne per 7 giorni. Ogni cittadino in Israele abiterà in capanne, affinché i vostri discendenti sappiano che ho fatto abitare in capanne i figli di Israele quando li ho fatti uscire dalla terra d'Egitto. Io sono il Signore Dio. Mosè comunicò ai figli di Israele le disposizioni per le feste del Signore. Il Signore disse a Mosè: ordina ai figli di Israele che ti portino olio puro di olive macinate per la lampada, per farne salire una fiamma permanente. Aronne la disponga nella tenda del convegno, fuori del velo della testimonianza. Sarà sempre davanti al Signore dalla sera fino al mattino. Legge eterna per tutte le vostre generazioni. Disporrà le lampade sopra il candelabro d'oro puro. Siano davanti al Signore sempre. Prenderai del fior di farina e cuocerai 12 focacce di 2 decimi di efa ciascuna. Le metterai in 2 pile, 6 per ogni pila, sul tavolo d'oro puro davanti al Signore. Su ciascuna pila metterai incenso puro e sarà sul pane come un memoriale, dono per il Signore. Ogni giorno di sabato lo si disporrà davanti al Signore, sempre. Sarà offerto dai figli di Israele come patto eterno. Apparterrà ad Aronne e ai suoi figli, che lo mangeranno in luogo sacro, perché è cosa sacrosanta per lui fra i doni offerti al Signore. Legge eterna. Il figlio di una donna israelita e di un egiziano uscì in mezzo ai figli di Israele.